sempre esidente, sempre presente, che ci accompagnerà. Lasciamela dire perché è troppo bella. La potete raccontare a casa, così portate una cosa, bisogna entrare, se no. Mi hanno raccontato una barzelletta su Hitler che è terribile. Sarò criticatissimo. Morale, dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo. Lo cercano dappertutto, lo trovano dopo le ricerche in un paese sconosciuto nelle Ande. Führer, devi tornare, la democrazia ha fallito, ti aspettano tutti e per 3 giorni vanno... E lui dice sempre di no. Alla fine si convince, dice sì, però ha una condizione. Torno a una condizione. La prossima volta cattivi, eh? E con questo abbiamo sistemato, oltre al comunismo, anche il nazismo. Che cosa le pare degli ex democristiani? Come si comportano? Mi hanno dato una bella storiella recentemente. E la racconti allora? Non so se è a livello di una trasmissione come la sua, ma è comunque... Non mi faccia licenziare, me l'hanno raccontata in romanesco, io chiedo scusa ma non lo conosco. Nerone è preoccupato perché c'è molta noia nella capitale. Allora chiama Tigellino arriva e dice: a Nerone che te serve? E loro gli dice: qua bisogna inventare qualcosa, bisogna fare una bella festa. Dice: non avevi quei 200 leoni terribili della Numidia? Ecco, dice, manda magari giù nell'arena i leoni con altri 200 cristiani, viene fuori un bello spettacolo. Tigellino annuisce, si dà da fare, viene il giorno della festa, l'arena, il Colosseo è ricolmo come nelle migliori occasioni, Nerone arriva soddisfatto, alza la mano, si dà inizio all'ingresso in campo dei contendenti, squillano le trombe, si aprono i cancelli, entrano 200 leoni terribili, affamatissimi, si buttano su a tentare di raggiungere addirittura gli spettatori della prima fila. Altro squillo di trombe, si aprono i cancelli, entrano le vittime predestinate cantando. I leoni si buttano sulle vittime, si sentono stridii, urla e intanto si solleva un polverone incredibile che toglie la vista di quanto sta succedendo e si sentono soltanto queste urla disumane, mischiate a ruggiti. Improvvisamente arriva il silenzio, la polvere scende e si vedono 200 leoni morti stecchiti e dall'altra parte incolumi e festanti quelle che dovevano essere le vittime. Nerone impallidisce, chiama Tigellino e gli dice: ma Tigellino, cos'hai capito? Che avevo detto 200 cristiani, non 200 democristiani. Ecco, io... Diffidate da coloro che non sanno ridere.